9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Anche stamattina io ho confermato, se avete sentito il giornale radio non dovete stupirvi, la sigla dei Doors, The End. Perché? Perché tentiamo di capire meglio allo stato attuale un accordo che è stato annunciato questa notte. È un accordo che per il momento ai mercati non piace. Tenterò di darmi una mia primissima interpretazione su perché non piace e dopo aver dedicato qualche minuto all'interpretazione di questo euroaccordo notturno al vertice europeo, poi torniamo invece a occuparci della cosa che riguarda noi tutti nell'immediato, cioè gli effetti della manovra varata dal governo Monti, una manovra che giorno dopo giorno acquista, per così dire, dei contorni diversi, visto che ieri la CGIA di Mestre ne ha fatto il numero, questa volta proiettato sul triennio, e siamo al ribaltamento di una impressione che da sempre i governi danno. I governi di solito negli ultimi anni, per così dire, ampliavano l'effetto e la portata delle loro manovre per gonfiare i muscoli e sembrare i risanatori dell'Europa. Invece il governo di emergenza guidato da Monti ha fatto il contrario, ha sottostimato nelle sue comunicazioni pubbliche gli effetti, perché gli amici della CGIA di Mestre, guidati dall'ottimo Bortolussi, ci dicono che nella realtà la manovra è di 63 miliardi in tre anni, cioè l'effetto netto dei 20 miliardi sarebbe stato anzi poco meno di quello che sarà nel solo primo anno. Naturalmente è una manovra che si aggiunge a tutte quelle precedenti, è la quarta in quest'anno, visto che c'è la manovra 2010 per il 2011, poi le tre che si sono aggiunte, una a luglio, una a agosto e questa qua, e che costerebbe complessivamente 2.500 euro a famiglia. Una manovra, e questo ovviamente ognuno poi ci aggiunge del suo, ma giustamente, in cui per esempio gli amici del Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Antonio Padellaro, dicono: ai papaveri di Stato la pensione non si tocca. L'apertura del Fatto Quotidiano di oggi, perché per dipendenti e funzionari di Camera, Senato, Quirinale, Consulta, i soliti organi di rilevanza costituzionale, che naturalmente hanno una disciplina economica a parte, non sono sottoposti al vaglio della Corte dei Conti, e beh, per loro naturalmente la nuova riforma del tutto contributivo non vale, e quindi se non si interviene, ma non può farlo il governo in un suo decreto, può farlo solo gli organi di ciascun organo di rilevanza costituzionale, e i loro dipendenti andranno via mantenendo la stessa retribuzione dell'ultima busta paga. E continueremo a parlare di tutte queste cose con il professor Raffaello Lupi, che è con noi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata. Prima di salutarlo e di cominciare con lui, laddove ci eravamo interrotti ieri nel ragionamento e stavamo ragionando di scudo fiscale, sul perché, sul per come non convenga per esempio procedere a un accordo con la Svizzera come hanno fatto tedeschi e inglesi, pensando di portare a casa almeno un altro punto di PIL di tasse su patrimoni che sono costituiti all'estero e sono quindi sottratti al nostro ordinamento, tento di spiegarvi per quale ragione io non sono sorpreso, e quindi i miei clienti non hanno molto di cui lamentarsi, dell'andamento del mercato molto critico questa mattina, al apprendere le prime notizie dell'euro convergenza di stanotte. Avete sentito Deborah Rosciani e i colleghi del giornale radio che vi dicevano come lo spread italiano stia rapidamente risalendo verso quota 470, quindi guadagnando molti punti rispetto a ieri, e come l'euro stamattina fosse in calo, non in rafforzamento, con 1,329 sul dollaro. Perché questo? Vi do una mia primissima interpretazione. Naturalmente i contorni veri dell'accordo, che è venuto solo alle 5 stamattina, non sono ancora noti, ci sono solo le prime dichiarazioni. Quello che si è capito sono tre cose di fondo. Naturalmente non è passato l'accordo a 27, ma questa è una non sorpresa, il tentativo tedesco di estendere l'accordo a tutta l'area dell'Unione Europea su regole così strette sette di procedure blindate di bilancio, non poteva che ottenere la scontata obiezione di paesi come il Regno Unito e come l'Ungheria, che non ci pensano neanche. L'Ungheria, tra l'altro, è già sottoposta ad un piano operativo di sostegno da parte del Fondo Monetario Internazionale e quindi già di fatto commissariata per la necessità di prestiti, e quindi poiché già conosce l'amaro prezzo di un'Unione Europea che l'ha consegnata al braccio operativo mondiale del sostegno in caso di insolvenza, giustamente ha ricambiato con gli interessi questa faccenda. E io devo dire, fossi ungherese lo capirei, come se, devo dirvi la verità, se fossi britannico sarei abbastanza ferocemente sostenitore della tesi di David Cameron, l'attuale premier, che dice: a un euro così concepito e immaginato è difficile immaginare che il Regno Unito abbia interesse a partecipare, rispetto al fatto che con la sua sterlina e con la sua Bank of England, che fa quantitative easing, cioè interventi non ortodossi come quelli della Fed, la Gran Bretagna, malgrado sia come somma del debito pubblico e privato messo molto peggio, non dico della Germania, ma dell'Italia, e paga un premio al rischio sovrano che è inferiore a quello della Germania oggi. Quindi è chiaro che se fossi britannico avrei l'evidenza provata che partecipare all'euro per la Gran Bretagna non è conveniente. Detto questo, quindi primo punto, non riguarda i 27, ma non riguarda neanche i 17 dell'euroarea. C'è un'estensione, cioè siamo a 22-23 paesi aderenti, quindi questo è interessante, vuol dire che c'è comunque una scommessa politica, questa è una buona cosa. Seconda cosa, bisognerà vedere, una volta solo conosciuti i testi, come funziona l'accordo sulla riforma dei trattati. Di sicuro mi pare di capire che la soddisfazione finale delle parole di Angela Merkel pronunciate stamattina, che dice testualmente: sono decisioni del summit molto buone perché l'Eurozona fa un passo decisivo per una vera unione fiscale, fanno intendere che quindi le modifiche ai trattati non sono quelle del protocollo 12 di cui abbiamo parlato ieri di Van Rompuy, ma sono esattamente il pacchetto in sei punti che era stato convenuto tra Sarkozy e la Merkel a inizio settimana, che era stato dettato dalla Merkel a Sarkozy a inizio settimana. Ecco perché su questo secondo punto i mercati sono scettici, perché modifiche di trattati così impegnative, l'accordo in sei punti era stato presentato come se entro marzo di quest'anno tutti i paesi che hanno detto sì stanotte devono adottarlo. I mercati di questo diffidano, e fanno bene a diffidare secondo me, visto che le procedure di adozione delle modifiche dei trattati si sono verificate nei nostri anni alle spalle sempre con sorprese, e sempre con sorprese negative, sia nei referendum, referendum che hanno detto dei no incagliando il processo e facendo ripartire da zero. È accaduto in Francia, è accaduto in Olanda, è accaduto in Danimarca, è accaduto in Irlanda, e sia con problemi di ratifiche parlamentari, e le ratifiche parlamentari a maggior ragione in un accordo che vincola le procedure di definizione del deficit e l'abolizione della possibilità di andare in deficit, tranne che per la Golden Rule, con un ruolo addirittura della Corte di Giustizia Europea, questa roba alla politica non piacerà, e quindi si farà come si sta facendo attualmente in Parlamento sulla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, in cui a parole è un vincolo che impedisce il deficit. Nella realtà poi si va a leggere il testo e si capisce che, come al solito, i politici ce la stanno mettendo nel fondo schiena, perché dicono una cosa e ne scrivono esattamente un'altra, perché hanno in testa che loro al deficit non rinunciano né ora né mai. E qui non sto facendo l'obiezione all'economista keynesiano classico che mi dice: ma che c'entra, nei momenti duri bisogna andare in deficit. Il problema è che i politici capiscono che bisogna andare in deficit sempre nei momenti difficili, ma senza mai rientrare quando poi la congiuntura obbligherebbe, anche secondo una buona interpretazione delle parole del vecchio John Maynard, a far rientrare l'equilibrio. Il politico capisce che il deficit è l'ABC del suo consenso, questo è il problema. A tagliare e incidere davvero la spesa corrente non ci pensa mai, dice che è impossibile, dice che si tagliano sempre i livelli essenziali dei servizi ai cittadini, dice che la democrazia è compromessa. Poi per di più non lo hanno fatto al governo, come capita al centrodestra, e si presentano queste sere e questa mattina accusando naturalmente il governo Monti di non tagliare abbastanza spesa, quando loro poi naturalmente l'hanno aumentata anche loro la spesa corrente, tranne che nel 2010 quando Tremonti li ha messi a secco, ecco, ma altrimenti la spesa corrente è sempre aumentata in maniera esplosiva. Ecco, quindi queste sono le tendenze dei politici, per le quali, terzo punto, e ho finito sull'Europa, i mercati diffidano perché nel frattempo quello che non è chiaro, e per questo i mercati secondo me continueranno a sfidare la tenuta di questo accordo fino a che non sarà chiaro, quello che non è chiaro è: al di là degli impegni di medio-lungo periodo sulla modifica delle procedure di adozione dei bilanci e dei trattati, cosa succede nell'immediato su sostegno alla cintura più esposta al rischio di insolvibilità, che è quella del sistema bancario, a maggior ragione dopo le decisioni rese note ieri dall'autorità europea bancaria, che ha non solo aumentato di un altro miliardo la necessità di ricapitalizzazione delle banche italiane, ecco perché i listini vanno male, è stato individuato in più di 15 miliardi e mezzo la necessità di rifinanziamento dei maggiori istituti, Unicredit, MPS e così via, niente per intesa, ma ulteriormente peggiorato le sue richieste di ricapitalizzazione delle banche per tutti i maggiori paesi europei, anche la Germania deve ricapitalizzare per 13 miliardi di euro. Di fronte a questo il problema è, bisogna capire, Mario Draghi così ha fatto capire, che la BCE farà interventi illimitati sulle banche, cioè significa garanzie, entrare nel capitale se necessario, oltre che le linee straordinarie di liquidità che sono diventate triennali da mensili e semestrali che erano. Prima domanda. Secondo, come si riequilibra il meccanismo di prestito interno tra banche che fanno parte del sistema europeo di banche centrali? Questo è un punto, mi rendo conto, un po' tecnico, ma cosa è successo in questi mesi? È successo che per sostenere il credit, evitare il credit crunch, tutte le banche dei paesi euro esposti ai problemi, per esempio anche la banca, tutte le banche centrali, per esempio anche la Banca d'Italia, hanno chiesto in realtà prestiti a chi potevano chiederle, non potevano chiedere alla BCE, perché la BCE su questo non aiuta direttamente le banche centrali, fa le aste di liquidità alle banche commerciali. Allora le banche centrali hanno in realtà chiesto dei prestiti a chi? Alla Bundesbank, alla banca centrale tedesca. La banca centrale tedesca ha nei mesi è diventata sempre di più un prestatore di emergenza per tutte le banche centrali degli altri paesi, il fine, ripeto, sempre quello, sostenere gli asset del sistema bancario. Il risultato è che per fare questo senza creare base monetaria aggiuntiva, non possono fare questo il sistema europeo delle banche centrali, la Germania è diventata la prima prestatrice di tutte le altre banche centrali del sistema dell'Eurozona, con questi prestiti che si chiamano Target, Euro Target, e per farlo però ogni volta che dava di più alle altre banche centrali europee ha dovuto cedere asset securities che aveva e che erano invece tedeschi. Quindi siamo al punto in cui ci sono 400 miliardi di euro che la Bundesbank ha prestato alle altre banche centrali del sistema dell'euroarea al fine di sostenere il credito secondo il metodo e nella piattaforma Eurotarget, ma è dovuto scendere da 300 rotti miliardi di securities che aveva tedesche in mano la Bundesbank fino a 15 miliardi, fino a quasi quota zero. E adesso, se dovesse continuare a esercitare questo ruolo di prestatrice nei confronti delle altre banche del sistema dell'euroarea, dovrebbe praticamente, siccome deve rimanere equilibrata nel suo bilancio rispetto agli asset che ha, perché non può fare creazione di base monetaria, a questo punto la Bundesbank, siccome ha finito gli asset tedeschi da cedere sul mercato per fare i prestiti alle altre banche dell'euroarea, dovrebbe intaccare le sue riserve auree, e nessuno può credere sul mercato che i tedeschi faranno questo per continuare a prestare alle altre banche dell'euroarea come alla Banca d'Italia. Ecco, allora questo è il terzo motivo, molto tecnico, ma per cui il mercato dice ci sono le banche molto esposte, il sistema delle banche centrali europee è in torsione, sfidiamo per vedere se la Banca Centrale Europea modifichi questo meccanismo. Modificare questo meccanismo significa federalizzare il debito, cioè accettare di mettere la mano sul torchio monetario. Per almeno queste tre ragioni la mia previsione è che si continuerà a ballare e quindi per il momento io tengo i doors. Fine della spiegazione tecnica, perché troverete invece domani sui giornali grandissimi toni di esultanza della politica che tenterà di vendere questo euroaccordo come un euroaccordo molto importante. Sarà molto importante se davvero si realizzerà queste procedure comuni di bilancio, che significano cessione della sovranità. Non credo che la politica sia davvero pronto a farle, non sto parlando della politica italiana, sto parlando della politica in generale. I mercati, per le due ragioni che ho detto e per tante altre, secondo me hanno più che ragione a mettere alla prova l'eurotenuta, e quindi bisogna stare molto col ventre a terra, quindi bisogna pensare che le manovre del governo Monti non bastano, questo lo dico come mia conclusione, il che non significa sposarla, perché nei suoi difetti va vanno, nei loro difetti vanno emendate, tanto più che abbiamo preso ieri, appunto, gli effetti sono potenzialmente molto più recessivi da quelli da cui eravamo partiti nell'analisi dei primi giorni. Allora, professor Raffaello Lupi, l'ho interrotta ieri e stavamo parlando, la saluto innanzitutto, buongiorno. Salve, buongiorno agli ascoltatori. Allora, eravamo rimasti al punto in cui stavamo cercando di capire che forse questo accordo con gli svizzeri noi non li faremo. Molti dicono, ma perché non acchiappare i soldi sugli evasori lì? Perché non fare come i tedeschi e inglesi? Abbiamo scoperto che i tedeschi e inglesi probabilmente non portano a casa se non l'acconto, ma intanto l'acconto lo portano a casa dagli svizzeri e gli dice meglio beccare almeno l'acconto che niente. Però poi ieri ci siamo fermati, mentre il punto delicato era di capire come, perché Giarda aveva detto che questo accordo in realtà il governo non lo farà, e non lo farà nemmeno per un'altra ragione, perché dice che non è coerente con l'impostazione dell'OCSE. Quindi in realtà abbiamo capito che noi i soldi della Svizzera non riusciamo a portarli a casa. Nella realtà io volevo chiederle la domanda che le faccio adesso: chi dice questa manovra è impostata con i criteri per cui continua a prendere quel che si vede, raddoppia l'imposta sulla casa che c'era prima, non se lo la reintroduce e così via, e chiede interventi di ordine diverso per l'estensione e l'emersione delle basi imponibili, siccome questa è la sua specialità, per così dire, ma è la specialità anche con l'occhio di chi non vuole devastare il paese, per questo io per questo apprezzo sempre il professor Lupi e tento di farlo parlare. In realtà che cosa secondo lei si potrebbe aggiungere a un'impostazione come quella che c'è nel decreto del governo Monti per assecondare la richiesta di chi dice prendiamo dove oggi il fisco non è in grado di vedere? Allora, usando gli esattori che ci sono, cioè le aziende, in modo intelligente anche dove ora non sono stati usati, buttando via lo spesometro così com'è formulato e cominciando a estendere qualcosa di simile alla ritenuta senza ritenuta in tutto il mondo degli autonomi, indipendentemente dalla loro qualifica formale come professionisti o come imprenditori. Cioè un falegname che fa 1000 euro di lavori per un'azienda che se li vuole dedurre emette solo la sua fatturina, ma poi ci sarà un bonifico, non si sa dove, non si sa, ma il bonifico non è incrociabile direttamente come le ritenute dei dipendenti e degli autonomi. Ci vuole qualcosa che sia già qualificato. Il fisco deve sapere che il falegname Raffaello Lupi ha preso per lavori di falegnameria 1000 euro e quindi va esteso il meccanismo dei dipendenti. Bisogna fare l'elenco fornitori, l'elenco clienti si può pure buttare, cioè stanno le dichiarazioni, si incrociano quelle con l'elenco fornitori, sono conti della serva, cioè è molto semplice. Se ci fosse stata un'analisi della determinazione della ricchezza ai fini tributari, non ci sarebbe voluto molto. Qual è la bacchetta magica che fa funzionare il sistema? La ritenuta alla fonte. La ritenuta alla fonte non si può fare sui falegnami perché quelli hanno i costi, quindi se facciamo la ritenuta sul ricavo lordo del falegname lo mandiamo a credito. Se togliamo la ritenuta ma facciamo solo la segnalazione, allora abbiamo la banca dati del fisco che sa quanti sono i ricavi dei falegnami, degli elettricisti, dei rivenditori di generi alimentari in tempo reale verso le aziende. Poi c'è il discorso di scaricare tutto verso i privati, la nota questione del contratto di interessi che sempre gli ascoltatori poi scrivono, arrivano gli sms, esatto. Perché non facciamo scaricare tutto a tutti, bisogna fare un po' di tara, ma un po' ci sta. E quindi se quello che è stato dichiarato è solo questo, vuol dire che sul resto hai fatto il nero, pure se sei congruo e coerente con gli studi di settore, e non è possibile che tutti i tuoi clienti siano solo aziende. E questo si potrebbe fare a costo zero subito, perché tanto qui non è che deve andare in giro l'ufficio fiscale a valutare quelle cose impossibili, perché l'amministrazione pubblica italiana non vuole decidere, vuole solo dire la legge dice questo, tu devi fare quest'altro. Quindi. Però questo si potrebbe fare immediatamente, perché poggia sulle aziende. Quindi, usandole in modo intelligente. Ripetiamo in sintesi, le aziende che sono quelle su cui già si fonda la quasi totale capacità non di portare a casa solo ho pagato il dipendente, esatto. Non dicono solo ho pagato, ma dice, l'avvocato. I miei fornitori sono questi. A me ho pagato l'elettricista, ho pagato il ristrutturatore, ho pagato il trasportatore. C'è una leggenda metropolitana all'Agenzia delle Entrate che quando hanno fatto un trasloco importante, i trasportatori che gli hanno fatto il trasloco avevano dichiarato di volume d'affari meno di quello che avevano fatturato all'Agenzia delle Entrate. Poi sono andati a vedere, ma quanto hanno fatturato? Perché della tracciabilità su larga scala poi la gente se ne frega. Il bonifico delle ristrutturazioni edilizie era già, come ho scritto sul Sole di qualche giorno fa, era già tracciabile. Ma se non c'era la ritenuta, la gente continuava a fare le fatture e le strappava, perché dopo tutto, anche se tutti dicono gli evasori, i criminali, il pericolo pubblico numero uno, poi dopo tutto sono ristrutturatori di appartamenti, mica hanno ammazzato Gesù Cristo, quindi quando li trovano pagheranno, ma era talmente bassa la possibilità di essere trovati, magari col bonifico switchato sul conto della nonna, sì, adesso pure se l'ufficio ci avrà il conto della nonna online, ma vatti a raccapezzare su milioni e milioni di conti. Qui ci vorrebbe la bacchetta magica, esatto. Molto meglio avere la segnalazione proprio, a parte che c'è qualche gola profonda che dice noi non è che saremmo proprio bene in grado di incrociare anche oggi tutte le ritenute. Ma ci sta gente che non dichiara i redditi di soggetti a ritenuta. Cioè, a me sembra inconcepibile che mi hanno fatto la ritenuta, no? Che siamo. Ma comunque detto questo, detto un questo, punto di partenza che si può fare subito. Che si può fare subito, che ha i costi di compliance da parte, ovviamente, da parte delle compliance, però molti meno, esatto. Mettiamo via lo spesometro, esatto, che costa molto di più, esatto, perché lo spesometro non funziona. Quando Oscar Giannino si va a comprare una cosa che costa più di 2500 euro, ma che gli devono prendere le impronte digitali, gli devono fare la radiografia, devono prendere un documento di identità e tenerlo lì. Magari Oscar Giannino va lì con un assegno e dice sì, ma io sto comprando per Raffaello Lupi, oppure io sono Raffaello Lupi, che cos'è, un falso? Andiamo tutti in procura della Repubblica, non è gestibile. Figuri, certo che non è gestibile, io la penso così, però sa che se lo dico io passo per un provocatore, lei a cattedra ha più titolo di me per dirlo. A questo proposito posso chiedere qualche opinione su il tema della tracciabilità, perché mi scusi, abbiamo appreso nel frattempo non solo sulla soglia di 1000 euro, non solo su quello, ma sui particolari che stiamo apprendendo in questi giorni. Abbiamo appreso in questi giorni che d'ora in poi, dal 1° di gennaio, tutti gli intermediari finanziari dovranno comunicare non solo quello che già erano tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, e cioè i saldi eccetera eccetera, ma tutte le operazioni su qualunque conto, di qualunque tipo, per qualunque tipo di intervento, regolazione del sistema di pagamenti, conto del posto titolo eccetera eccetera, tutte le operazioni, tutti i dati vengono tutti automaticamente girati all'Agenzia delle Entrate. Quindi di fatto ogni privacy nei confronti dello Stato residua per tutti i cittadini italiani è venuta meno dal 1° di gennaio. Secondo, apprendiamo in materia di obblighi di tracciabilità a 1000 euro di soglia per tutte le figure professionali che hanno a che vedere con la catena delle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate, che la sanzione sarà, in caso di mancata comunicazione anche di una sola delle transazioni effettuate a qualunque titolo e con qualunque intermediario, per qualunque ragione, per qualunque operazione sopra i 1000 euro, se non comunicata comporta l'esposizione a sanzioni per i professionisti contabili fino a 3000 euro per ognuna di queste cose, se te la dimentichi di raccontarla allo Stato. Posso chiederle delle sue considerazioni sulla somma di queste cose? Che Allah fa impazzire quelli che vuole distruggere, dicono i musulmani. No, è che se sappiamo troppe cose è come non sapere niente. Cioè, se già non riusciamo bene a inquadrare le ritenute di acconto o non sappiamo come inquadrare bene le ritenute di acconto che sono selezionate, specifiche, mirate, che ci facciamo con miliardi e miliardi di movimentazioni bancarie al giorno? Chi le valuta? Qui c'è un equivoco gigantesco, che la tracciabilità non può sostituire la contabilità, che è la qualificazione di quello che è successo. Dare il dato grezzo, dice sul conto di Oscar Giannino sono finiti tot soldi, poi questo senza che sia interpretato, perché la banca in ogni caso può solo dire ci sono finiti questi soldi, non è che può dire perché certo. Non lo sa la banca. Certo. La banca sa che è arrivato un bonifico da Raffaello Lupi. Se Raffaello Lupi ci scrive restituzione di finanziamento, la banca può solo prendere atto, cioè non è che può fare il poliziotto. Quindi con i dati non qualificati, grezzi, si possono fare solo le famose presunzioni, le stime, valutare, eccetera, eccetera. Ma non si riesce ad andare a colpo sicuro con l'incrocio, quello che dicevamo prima, cioè Tizio ha detto che Oscar Giannino gli ha fatto una prestazione di elettricista per 2000 euro. Questo è a colpo sicuro. Il versamento, la traccia, va bene quando è una, no? Ma nemmeno i cacciatori di visto dei Sioux sarebbero riusciti a trovare qualche cosa se c'erano bisonti dappertutto. Vabbè, dunque io spero che gli ascoltatori non si arrabbiano se ogni tanto mi parte la risata, perché a me quello che piace del professor Lupi è esattamente questa capacità icastica, pagherei per essere stato suo studente, di rappresentare problemi molto seri che ci picchiano nelle tasche e significano lo squilibrio, il più dello squilibrio del paese viene da un ordinamento fiscale, lasciamo perdere il livello troppo elevato di spese di prelievo, questo riguarda me come obiezione, ma il problema è che questo sistema è inefficace per come lavora, per come è organizzato, per quelli che sono i suoi presupposti. Temo che la maniera in cui il professor Lupi riesce a farvi riflettere con le cose, per portare a casa la preda bisogna saper seguire le tracce, ma se le tracce sono troppe non portiamo a casa niente, facendo l'esempio dei Sioux, sia molto più efficace di coloro che invece dicono no, più dati, più poteri, scoviamoli con tutto, e che contribuiscono solo a estendere sulla carta l'onniveggenza e onnipotenza di questo Stato orwelliano. Dall'altra parte però poi scopriamo che questo è in grado di fare le briciole, noi semplicemente abbattiamo a una soglia intollerabilmente bassa oramai le nostre difese di diritto nei confronti di questo Stato a cui stiamo concedendo tutto sulla carta, poi in pratica scopriamo che naturalmente gli squilibri restano sempre tali da lasciare insoddisfatti esattamente coloro che invocano più giustizia fiscale. Comunque saluto e ringrazio per la puntata anche di oggi il professor Lupi, avete capito l'elenco fornitori, non tutta questa batteria di follie di cui si parla. Viva il professor Lupi, che io ringrazio, adesso andiamo in pubblicità. Allora, stiamo con la borsa italiana che sta accrescendo il suo buon andamento rispetto invece ad andamenti divergenti come quella francese. Vedete che ci sono valutazioni sui mercati diverse a seconda della diversa esposizione, per così dire, della diversa capacità di esposizione a un meccanismo cooperativo di intervento a salvaguardia dei difetti dei diversi sistemi paese. A un ascoltatore che mi chiede, ma tu reputi che noi abbiamo evitato il rischio del Fondo Monetario Internazionale? Io, a costo di sembrarvi ancora una volta troppo pessimista, rispondo no, non reputo affatto che questo rischio sia evitato, perché siccome il mercato continuerà a testare cosa voglia dire nel breve periodo questo accordo, l'Italia continua a essere esposta a un meccanismo di cui gli attuali scudi europei non hanno capienza per sostenerci. Quindi la mia risposta è netta, sì, continuiamo a essere assolutamente esposti alla possibilità di un intervento del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo con noi in questa seconda parte della trasmissione il segretario dell'UIL, Luigi Angeletti, che io ringrazio. Buongiorno segretario. Buongiorno. Allora, posso chiederle, visto che stiamo apprendendo che in realtà questa manovra ha un impatto largamente superiore a quello comunicato dal governo, un po' opposto rispetto agli altri governi che di solito gonfiavano le loro manovre, scoprivano che erano di meno, poi i contribuenti, i lavoratori, i pensionati, adesso invece è l'opposto, perché pare che sia una manovra per oltre 60 miliardi in tre anni. Poi apprendiamo che anche la decisione di riaprire i termini del pagamento agli scudati, capitali scudati, in realtà aveva ragione un capo che obiettava come sottoscritto, perché in realtà molti di coloro che hanno cambiato intermediario, basta che abbiano cambiato intermediario, lo Stato non è in grado di prendergli più niente. La riforma delle pensioni è dura e tosta, quella colpisce sì, ma il resto abbiamo argomentato in questi due giorni, per esempio per cambiare l'ordinamento fiscale e prendere dove fino a questo momento non si è preso, beh insomma gli effetti sono abbastanza scarsi. Rispetto a questo voi riprendete la via della protesta insieme agli altri sindacati. In realtà ragionevolmente Angeletti, che cosa lei pensa concretamente si potrebbe aggiungere che non c'è per riequilibrare nella manovra? In primo luogo bisognerebbe togliere un pochino di quello che c'è, dal prelievo sui pensionati, non esagerare nelle penalizzazioni come invece si è fatto per quanto riguarda alcune fasce di età che sono state veramente massacrate in termini di cambiamento delle loro prospettive pensionistiche, e riequilibrare il prelievo sulla prima casa caricandone di più sulla seconda, la terza, la quarta e così via, in maniera abbastanza progressiva, senza mettere in mezzo i redditi, perché sappiamo che sarebbe l'operazione più truffaldina possibile, nel senso che, come è noto, noi abbiamo fatto uno studio, i lavoratori autonomi dichiarano di avere redditi più bassi dei lavoratori dipendenti, ma hanno proprietà immobiliari del 60% superiori. Quindi, mischiando i due redditi, le due fattori, i redditi patrimoniali con i redditi individuali, si farebbe un'altra ingiustizia. Basta un aumento progressivo delle tasse sui beni mobiliari, visto che sui beni immobiliari, visto che sui beni immobiliari insomma qualcosa è stato fatto. Poi quello che secondo noi si deve poter fare è intanto spiegare che noi non abbiamo solo un problema di liquidità da risolvere, abbiamo anche un problema di crescita, e quindi bisogna cominciare a rimettere in piedi e cominciare a fare tutta una serie di manovre, di riforme che vanno in quella direzione: liberalizzazioni, riduzione dei costi della politica, non come fatto etico ma come fatto economico, cioè i costi diretti ma anche quelli indiretti, tipo le proprietà pubbliche di beni immobili che dovrebbero essere venduti, e venduti in maniera che possono essere acquistati, cioè con la libertà di trasformare una caserma in un albergo, perché se non si fa questo contemporaneamente è difficile che si riesca a fare un affare. Queste cose qui che ovviamente incidono e che sinora sono state dette ma non fatte, perché influiscono molto pesantemente sulla, non voglio usare un'espressione feroce, diciamo così, sul potere politico, sull'esercizio del potere della politica sull'economia. Questo darebbe il segno che stiamo diventando, non dico virtuosi, ma simili agli altri paesi europei. Senta, posso girare le due domande che sono quelle che hanno tra più sostenitori e chi ci manda gli sms adesso mentre lei al microfono? Due risposte a due domande che sono probabilmente un po' impopolari da affrontare, però sono domande che hanno molti, molti accaniti sostenitori. Primo, cosa pensa il capo di uno dei più grandi sindacati italiani del fatto che la riforma previdenziale, che lei ha detto è fin troppo rapida nell'accelerare la parificazione dei tetti di anzianità e previdenza, e nel passaggio a vecchiaia e nel passaggio totale al sistema contributivo, ancora una volta però salva tutti i dipendenti degli organi di rilevanza costituzionale, quindi Camera, Presidenza del Consiglio, Quirinale, eccetera eccetera. Si riesce a far vergognare i capi, i questori della Camera, Senato eccetera, e farli cambiare anche a loro, come per tutti gli altri lavoratori ordinari, la modifica entrando pienamente nel contributivo? Secondo, e questo riguarda invece tantissimi lavoratori privati, tantissimi lavoratori autonomi che dicono: possibile mai che davvero tutti noi, se le cose vanno male con le procedure che ci sono nel mercato del lavoro, però perdiamo il posto di lavoro, andiamo in mobilità eccetera, per chi poi è nella fascia per cui ha questo tipo di strumenti, gli altri non ce l'hanno ancora, mentre invece il settore pubblico e i dipendenti pubblici restano sempre intoccabili? Ecco, io ho queste due domande da farle, come si risponde a questo? Allora, alla prima, noi ovviamente siamo del tutto favorevoli a che le regole valgano per tutti, a cominciare dai deputati e dai senatori. Abbiamo apprezzato l'intenzione di modificare in questa direzione assunti dal Presidente della Camera e del Senato, Ovviamente abbiamo detto, lo ripeto, che faremo un applauso simbolico il giorno in cui vediamo il voto. Esatto, però qui il problema stiamo parlando dei dipendenti adesso, non dei parlamentari, per i dipendenti è funzionale. No, è la stessa cosa di conseguenza, è un'automatica conseguenza. E infatti speriamo che la gente faccia capire a chi decide queste cose a Camera, Senato, Quirinale e Consulta, c'è anche la Corte Costituzionale dentro, che i dipendenti loro non sono figli della gallina bianca, e invece al pubblico che dicono i privati che perdono i posti a centinaia di migliaia, e perché gli altri no? Capisco che mal comune mezzo gaudio non può essere la soluzione, ma lei che dice di fronte al fatto che il pubblico non si dico trova? Dico che c'è già una norma del precedente governo che prevede l'applicazione per il settore pubblico della sequenza classica, mobilità, cassa integrazione, un nuovo posto di lavoro, a rifiuto del nuovo posto di lavoro, licenziamento. Ovviamente non ha avuto il nostro applauso, io sono sincero e quindi non è che dico una cosa diversa a seconda con chi parlo. Noi non siamo favorevoli, come dire, al fatto che il male si diffonda. Però ovviamente ci rendiamo conto che abbiamo poche possibilità di fermare questa diffusione. Quindi devo rispondere così, che per quelli che fanno il tifo, purtroppo, aggiungo io, l'aggettivo è mio, si stanno verificando i loro desideri. Senta, nel caso in cui si andasse a modifiche come quelle che lei ha chiesto sulla manovra per renderla più equa, quindi attenuazione degli effetti sociali su ICI prima casa e rallentamento della troppo rapida attuazione delle modifiche previdenziali, lei è davvero convinto che il saldo con quello che ha proposto di fare in cambio in più, incrociando i dati immobiliari con i redditi degli autonomi, sarebbe pari e che consentirebbe all'Italia su questo di continuare a mantenere il giudizio positivo espresso dai partner in questi giorni? Sì, per due ragioni, perché se avessimo, secondo noi, i nostri calcoli si compensano, ma simuliamo che ovviamente che noi siamo stati troppo ottimisti nel fare i calcoli, ci sarebbe per esempio un altro strumento che potrebbe essere utilizzato per risolvere i problemi di liquidità, che è quello per esempio di pagare, lo Stato paga un sacco di persone, di dare oltre 5.000 euro, di pagarli in buoni del tesoro. Ecco, strumenti di regolazione dei rapporti diretti attraverso gli strumenti del debito pubblico. Perfetto, allora io saluto e ringrazio il segretario Luigi Angeletti, abbiamo le informazioni strade. Allora, mentre ripartono i dors per la conclusione, nel frattempo emergono i primi risultati concreti di questa dell'accordo di questa sera, dell'accordo di unione di bilancio a 23 con l'anticipazione del fondo permanente salvastati a luglio 2012, con il coinvolgimento della BCE nella gestione operativa, ma senza farlo diventare una banca, quindi anche su questo vedete che la linea di Van Rompuy non è passata. Nel seguito, sentite le edizioni diverse del GR di Radio 24, vi daremo tutti gli altri particolari che stanno emergendo. Intanto un po' di ascoltatori che in questi giorni ho troppo colpevolmente trascurato. Iniziamo con Luciano da Firenze, che pensa? Sì, buongiorno Giannino, devo dire una cosa, la mia domanda riguarda il nostro nuovo governo tecnico. Sì. Viste i primi risultati e comunque le notizie che sono state date, risulta che hanno detto un sacco di cose tecnicamente sbagliate o di bufale. Le domando, il suo parere è che questi stiano agendo con le viete regole della politica in cui si dice cosa si ne fa un'altra, oppure sono i classici professori che non hanno mai camminato sui marciapiedi di una città italiana e non hanno mai parlato con chi veramente lavora e cerca di produrre? Allora, grazie, Luciano, le do subito risposta. Una risposta. Certo, il professor Monti dà l'idea di essere un algido distante intellettuale, in realtà non lo è così, anche se non lo è affatto, e negli anni in cui è stato commissario europeo univa una fredda, algida distanza, perché questo è ciò che lo contraddistingue umanamente, anche con una visione molto vicina, molto più vicina di quanto non sembri, alle condizioni concrete di come si vive in Italia e in maniera comparata nei diversi paesi europei, almeno questa è la mia opinione. Certo, quello che si vede è che sono provvedimenti in cui io ho detto ci aspettavo Martin Lutero, mi sembra un oculato domenicano, continua a comandare un po' troppo la Ragioneria Generale dello Stato, questa è la mia idea, quindi sono provvedimenti inerziali a prendere dove c'è. Continuo a dire che se non fanno loro la maxi dismissione di mattone pubblico, non capisco perché allora non tenere un governo politico, perché lo devono fare i tecnici, lo devono fare subito, non c'è questa roba che può abbattere di 20-25 punti di PIL il debito pubblico italiano, e il riequilibrio dell'ordinamento fiscale lo può fare meglio chi non ha problemi di constituency politica, lo può fare meglio i tecnici politici, ma questo non c'è nemmeno da parte loro. Questi sono i due motivi veri per cui io sono molto deluso, continuando però a dire che il governo precedente ora era oramai ingestibile, ci aveva fatto perdere ogni rapporto col resto del mondo, e quindi questo io non me lo dimentico. Felice da Latina, prego, rapido. Buongiorno innanzitutto, molto sintetico perché gli argomenti sarebbero tanti. La previsione per la crescita del PIL l'anno prossimo è negativa, quindi anche a pareggio di bilancio la situazione peggiora. La domanda è, non è che il problema dell'Italia era e rimane quello della crescita? Una manovra che è soltanto recessiva, perché è solo dei tagli, dove ci porta? Risolveremo il problema? Ecco, invece fare una legge che vincoli a fare le dismissioni e le privatizzazioni, obbligando il governo a utilizzare le risorse esclusivamente per il riacquisto di titoli, quindi per l'abbattimento del debito, e contestualmente invece fare politiche espansive, secondo me è l'unica cosa che ci porta fuori dai guai. Felice, dica. Un'ultima notazione riguardo quel discorso della tracciabilità dei conti, eccetera. Siamo sicuri che serve solo per l'evasione fiscale? No. O anche lo scopo di far emergere, per esempio, tutto il nero che viene dall'economia, diciamo, criminale sommersa? Vabbè, vediamo, io comunque tutti i dati dai in mano allo Stato, guardi, io penso, sono proprio per ragioni filosofiche, sono contrario, rimarrò mosca bianca, non ci posso fare niente. Io mi scuso con Paola che aveva delle osservazioni sullo scudo fiscale, ma qui non siamo in tempo più a mandarle in onda, perché le chiederei di farlo solo in 15 secondi per mancanza di rispetto, preferisco invece rispettarla di più, scusandomi in anticipo perché l'abbiamo fatta stare per telefono, ma non gli diamo la linea. Su questa linea di tutti i dati di noi tutti, con sanzioni così gravi per i professionisti che non danno una mano per la tracciabilità, quando apprendiamo che la convenzione per il recupero della tassazione dei soldi in Svizzera non si farà perché era una bufala, e lo è stata anche per i tedeschi e i britannici, tranne che per l'acconto che portano a casa, e quando si capisce che aveva ragione chi come me diceva prima di rompere il patto con gli scudati rendetevi conto che non riuscirete neanche a beccare di più se hanno cambiato intermediario, ecco, l'amara realtà è che chi non è titolare di cattedra come me, chi non è un politico in cattedra, ma chi conosce cosa vuol dire andare avanti con società così per tartassate come me, come tanti altri, forse ha qualcosa da dire, se qualcuno ci ascolta, altrimenti faremo un partito e questa sarà la nostra maniera a quel punto di tirarci sulle maniche. Appuntamento a domani, Linea Generale Radio. Mm.